le mie unghie rotte e piene di terra e le lividure che le tue guardie mi hanno fatto alle braccia, con la mia paura che mi stringe le viscere, io sono regina. Sapevo di morire in un domani. E anche se non l'avessi tu deciso, ora, se è tempo di morire, io lo chiamo un vantaggio. Per chi vive tra dolori infiniti come io vivo, perché la morte non dovrebbe essere un bene? Così per me questo destino non è sofferenza. Esci dalla penombra e cammina davanti a noi un poco, gentile con il passo leggero della donna risoluta a tutto, terribile per i terribili, distolta a forza. Io so come temevi la morte, ma ancor di più ti faceva orrore la vita indegna e non fosti indulgente in nulla verso i potenti, non scendesti a patti con gli intriganti e non dimenticasti mai l'ingiuria e sui loro misfatti non crebbe mai l'erba. Ed è con le parole su Antigone di Bertolt Brecht che l'angolo noir vi dà il bentornato. Oggi facciamo un giro, ce ne andiamo nel Sahara, nella Grecia e in altri posti, ma prima, come di consueto, ci sentiamo un pezzo. Giove certo non fu chi a me le impose, né la giustizia agli inferi, codeste leggi fissò mai tra gli uomini. Io non pensai che tanta forza avessero gli ordini tuoi, tali da rendere un mortale capace di varcare i sacri limiti delle leggi non scritte e non mutabili. Non sono né di ieri né di oggi, ma da sempre vivono, e quando diedero di sé rivelazione è ignoto. Non volevo, per timore di un uomo, essere esposta a condanna divina, ma io non sono obbligata a fare ciò che non voglio. Mi farete uccidere contro la vostra volontà. Essere re consiste in questo. Governare, essere un governante, consiste in uccidere. Anno 1967, durata 104 minuti, genere drammatico. Nord Italia, primi anni 20, un bambino nasce da una giovane coppia. Apre per la prima volta gli occhi in un prato tra le braccia amorevoli della madre e la gelosia del padre, militare di carriera, convinto che il figlio gli ruberà l'affetto della moglie. La scena si sposta nell'antica Grecia. Un pastore incontra in un territorio desertico un uomo che trasporta un bambino molto piccolo attaccato ad un bastone. Quando vede che lo abbandona in terra al proprio destino, lo raccoglie e lo porta al suo re, al re di Corinto. Il giovane giunto a Corinto scoprirà molto presto di essere stato trovato e, intenzionato a scoprire le proprie origini, si reca sul tempio di Apollo a Delfi per interrogare l'oracolo. Ed è qui che gli verrà per la prima volta detto che ucciderà suo padre e sposerà sua madre, la regina Giocasta, che infine incontrerà Tebe dopo un lungo viaggio durante il quale inconsapevolmente ucciderà suo padre. Sposerà la regina Giocasta dopo aver ucciso la Sfinge, un mostro che terrorizza Tebe e che lui spingerà in un abisso. Non prima però che la Sfinge gli predirà nuovamente il suo futuro. Il vero abisso è dentro di te e non te ne libererai mai quando il fato si compie. Si strapperà gli occhi e abbandonerà Tebe, vagando di città in città con un flauto, così come gli era stato predetto. Edipo Re è il film di Pasolini, che lui definisce essere altamente autobiografico. Il bambino del prologo sono io, suo padre è mio padre, ufficiale di fanteria, e la madre, una maestra, è mia madre. Per me, Edipo è il simbolo dell'uomo occidentale, reso cieco dalla volontà di non sapere ciò che è e di ignorare la terribile verità della propria condizione, e dunque prosegue il proprio cammino verso la catastrofe. Simun Ermattan, Kamsin in Ghibli. Simun è un vento forte, secco e polveroso che soffia nel Sahara, in Algeria, in Israele, in Giordania, in Siria e nel deserto arabo. La sua temperatura è molto elevata, può superare i 54 gradi. Si muove in cicloni in forma circolare, sollevando nuvole di polvere e sabbia e modificando la forma delle dune. Per questo motivo produce su uomini e animali un senso di soffocamento. Questa particolarità gli ha valso l'appellativo di vento velenoso. Erodoto diceva che come un vento rosso soffia dal Sahara e uccide e seppellisce ogni cosa che incontra. Armatan, in italiano armattano, un vento secco e polveroso che soffia a nord-ovest e a ovest, dal Sahara al Golfo di Guinea. È considerato un disastro naturale. Quando soffia forte, può spingere polvere e sabbia fino al Sud America. Khamsin soffia da sud-est portando caldo e sabbia in tutta la zona orientale del Nord Africa e sulla penisola araba. Il nome lì deriva dall'arabo, significa 50, il numero di giorni consecutivi in cui il vento, secondo la tradizione, spirerebbe con una certa costanza. Ghibli viene dalla parola araba sharqiyya, che significa scirocco, un vento caldo proveniente da sud-est. Tale direzione è indicata nella cosiddetta rosa dei venti ed è tra i venti che si aggira sperduto e cieco Edipo Re, che rappresenta, secondo Pasolini, la cecità di un occidente che non sa più dove sta andando. Ma Edipo Re non è solo a vagare. Tinz Auad Tin è un inferno che raccoglie tutte le sofferenze della terra. Qui viviamo nascosti tra le rocce, nella sabbia, sotto baracche di plastica o dentro le grotte, raggruppati per nazionalità. C'è un unico vecchio pozzo per tutti, sarà profondo 15 metri, l'acqua non si vede, ma quando la tiri su è verde. Si mangia polvere e chat, un nome che significa capre rubate ai Tamashek. Chi ha un po' di soldi compra la merce in arrivo da Kidal e la va a rivendere al villaggio. Alcuni lavorano come servi nelle case, fanno le pulizie o il bucato per 20 centesimi di euro. Ogni giorno i venti alzano una tempesta di sabbia e poi inizia a fare estremamente caldo. Alcuni di noi sono completamente impazziti. Edipo Re, che rimane abbandonato al suo destino, se ne va e ritorna a Tebe, sua figlia Antigone. Essere un re significa questo? Governare, essere un governante, significa questo? Skull called harmony. Antigone lascia suo padre, Edipo errare cieco nelle valli del Sahara e fa ritorno a Tebe, dove scopre che però nella città è appena iniziata la guerra dei sette, causata dalle discordie tra i suoi due fratelli, Eteocle e Polinice. Il re Creonte emana un bando nel quale si dice che Polinice non deve essere seppellita, un traditore si è alleato con la città di Argo, il suo corpo deve andare in pasto ai cani. Antigone non ci sta, si ribella, suo fratello avrà una degna sepoltura. Le leggi naturali avvalgono molto di più di quelle dettate da un tiranno. In questo caso è evidente il conflitto e Antigone diviene un simbolo. Il conflitto tra l'autorità e il potere, è il problema della legittimità delle leggi, quando a dettarli sono dei tiranni dispotici. Antigone in questo caso diventa il simbolo di una donna che con la propria vita paga e sfida il patriarcato e ogni forma di totalitarismo. Essere un re significa questo. Essere un governante, governare significa questo.